America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Communication, weather satellites, GPS, spy satellites, you name it, it's up there in outer space. So you're saying that my BlackBerry won't work? Avete sentito questo scambio? Si parla di tempesta solare. Beh, se ne parla da un paio di giorni, ma la Fox News ha insistito e, sentite, piuttosto preoccupato l'annunciatore. Dice, ma come, non funzionerà neanche il mio BlackBerry? E lo scienziato che parla con lui, beh, attenzione, non solo il BlackBerry, rischia di saltare l'internet, rischia di saltare l'elettricità. Insomma, in America si parla molto di questa tempesta solare, una tempesta che succede una volta ogni tot anni e sta capitando proprio in questo inizio di 2012. Ci sono delle esplosioni del sole che producono una coda di luce che arriva in 8 minuti, pensate, fino alla Terra. Questa coda di luce è seguita subito dopo da protoni ad alta energia che arrivano in 10-20 minuti. Una delle conseguenze possibili è quella di una formazione di campi magnetici, satelliti che potrebbero non funzionare, satelliti militari. Insomma, c'è un piccolo stato di allerta, la NASA conferma che bisogna fare attenzione. Nel frattempo, siccome questa tempesta era prevista, sono stati costruiti dei sistemi di backup per poter intervenire nel caso ci fossero delle crisi, per esempio in dei generatori elettrici e così via e così via. Ma uno degli aspetti interessanti, curiosi, divertenti è che, come spesso succede, Wall Street si interessa e si occupa molto di questa tempesta solare e quindi ci si domanda quale sarà l'effetto su Wall Street e sulla borsa da queste tempeste solari. Bob Prechter, founder and president of Elliott Wave International. I don't know if I want to continue this interview, Bob. Wow. Well, okay. It's always good to talk to you, even though we only get to talk once a year. And, you know, I'll try to curb my Bob Prechter, sentite, Maria Bartiromo lo introduce sulla CNBC e Bob Prechter è un guru che studia fenomeni sociali, che basa alcune delle sue teorie sullo studio delle cosiddette onde Elliott. Ebbene, Prechter è ottimista. Il guru dice che una tempesta solare potrà soltanto avere delle conseguenze positive su Wall Street. Beh, su Wall Street, sulla borsa naturalmente, in effetti qualche cosa abbiamo visto che in Grecia la situazione si è tranquillizzata, le borse si sono riprese, ma lasciando un attimo la fantascienza da parte e tornando invece ai dati concreti, che cosa sta attendendo Wall Street in questo momento con una certa ansia? Beh, sta aspettando il tasso di disoccupazione per il mese di febbraio. Le previsioni sono che il tasso resterà invariato attorno all'8,3%, Barack Obama sperava un'altra piccola diminuzione, chissà, magari all'8,2, all'8,1, per poter poi contare su una spinta che avrebbe potuto portare questo tasso di disoccupazione al di sotto dell'8% e dunque in un'area di sicurezza dal punto di vista politico in un anno elettorale. Bene, ci avviciniamo al weekend, parliamo di cultura, beh, intanto voglio dirvi di questa mostra straordinaria dei fratelli Stein al Metropolitan, Gertrude, Leo, Michael Stein, e la loro collezione, la loro storia e il loro arrivo a Parigi, veramente una mostra che merita, di straordinario interesse non soltanto artistico ma anche storico e culturale. Ma parlando d'arte, se qualcuno di voi fosse in procinto di arrivare a New York, beh, dovrebbe fare un salto all'Armory. L'Armory è una straordinaria fiera dell'arte che è a New York, aperta dall'8 all'11 marzo, è una fiera che si tiene in questi due grandi hangar sull'Hudson River, dove in genere arrivano le navi, attraccano le navi dei turisti, poi si passa attraverso per imbarcarsi. Bene, adesso questi due grandi moli, il Pier 94 e 92, sono occupati da gallerie d'arte moderna e contemporanea, sono addirittura 228 e forse per la crisi, per il segno dei tempi, ce n'è una cinquantina in meno rispetto all'anno scorso, ma è sempre uno spettacolo straordinario, perché ci sono una gran quantità di artisti affermati, artisti nuovi, molte gallerie italiane come Continua, Massimo De Carlo, molti artisti italiani e soprattutto dall'Italia una curiosità di Galleria Nomade. Ecco, Galleria Nomade, The Pool NYC, Viola Romoli di Firenze è con me in linea ed è una gallerista italiana che partecipa all'Armory. Buongiorno Viola. Buongiorno. Ecco Viola, allora mi dica, ma cos'è sta Galleria Nomade? Perché voi non avete una vera e propria sede, ma continuate a girare di fiera in fiera, è questa la storia? Questa è la storia, no, la storia è che abbiamo pensato di basarci non solo in un posto, ma in più posti, seguendo un po' gli avvenimenti di arte più importanti. Ecco, quando lei parla facciamo, andiamo, lei si riferisce a un plurale, perché credo che lei abbia un socio. Sì, ne avrei anzi due, ma diciamo che la parte attiva siamo in soltanto due persone, che ci muoviamo da una parte all'altra del mondo. Ecco, Luigi Franchin, se non sbaglio, no? Di Venezia, sì, invece, quindi un veneziano e una fiorentina. Ecco, dunque, io prima ho accennato agli Stein. Gli Stein, grandi collezionisti di opere di Picasso, di Matisse, quando Picasso e Matisse non erano nessuno. Ecco, curiosità, se qualcuno viene a queste fiere, c'è la possibilità di scoprire un grande artista comprando qualche cosa a buon mercato? Assolutamente sì, siamo qua per questo. E anzi, cerchiamo di proporre sempre artisti giovani che abbiano dei prezzi ragionevoli. Qual è un prezzo ragionevole? Un prezzo ragionevole è dagli 8.000 dollari. A meno non si trova nulla, diciamo un paio di migliaia di dollari per i poveri giornalisti. Certo, assolutamente, però dipende da quale è il media usato dall'artista. Certo che se si vuole comprare un pezzo di marmo è difficile trovarlo a meno di 8-10.000 dollari. Ecco, qual è direi la cosa più interessante in questa fiera dal punto di vista del media? Qual è la cosa che oggi, se lei dovesse dire oggi, è la cosa più interessante di questa mostra, il trend, la tendenza? Ma io cerco naturalmente di promuovere anche quello che faccio io e trovo che l'artista che presentiamo, che si chiama Patrick Jacobs, che lavora con il diorama, sia sicuramente tra le cose più interessanti proposte, perché è un mezzo, sicuramente il primo che l'ha usato è stato Duchamp, però è stato reinventato in una maniera più attuale e diventa assolutamente contemporaneo e accattivante. Abbiamo parlato all'inizio della trasmissione della tempesta solare, di come questa tempesta potrebbe in qualche modo avere ripercussioni positive sulla borsa e sull'economia. Però anche l'arte può essere un termometro. Come stanno andando le vendite? Bene le o vendite male? Benissimo, stanno andando alla grande. Nelle prime due ore della fiera abbiamo venduto la metà dello stand, quindi siamo molto contenti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il 9 marzo del 1966 Bob Dylan registrava Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine. Ve la ripropongo oggi, 46 anni dopo, nell'anniversario della sua incisione. Bob Dylan, Most Likely You Go Your Way. You say you love me and you're thinking of me, but you know you could be wrong. Say you told me that you wanna hold me, but you know you're not that strong. I just can't do what I've done before. I just can't beg you anymore. I'm gonna let you pass, and I'll go last. Then time will tell just who has failed. Deserve me, but you know sometimes you lie. You say you're shaking and you're always aching, but you know how hard you try. Sometimes it gets so hard. got to care. Can't be this way everywhere. And I'm gonna let you pass. Yeah, it's not the last. And time will tell who has failed and who's been left behind. When you go your way. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.